Episodio 5. 11. Ascolta le interviste. Allora, Monica, c'è qualcosa che avrebbe potuto cambiare il corso della tua vita se tu ripensi al tuo passato? Sì. Ero molto brava nel mio sport, ero molto giovane e mi avevano proposto una Serie A. Che sport? Il calcio femminile. Uh-huh. Praticamente se loro mi avessero preso, io non avrei continuato sicuramente a studiare, non avrei fatto le superiori e quindi non sarei andata all'università. Ah, perché? Quanti anni avevi? 15 anni. Uh-huh. E come mai ti hanno preso? Praticamente non c'è stato un accordo tra la società dove dovevo andare e la mia vecchia società a livello economico. L'accordo è saltato. E ripensandoci adesso, ti dispiace che non sia successo? No, sono molto contenta di aver studiato e di fare quello che faccio. E che cosa fai? Sono insegnante di educazione fisica, insegno ai bambini e niente, sono contenta, ecco. Fotografo infatti all'università ho fatto istituto d'arte, quindi insomma faccio entrambe le cose. Caterina, dunque, se tu ripensi un po' al tuo passato, c'è qualcosa che hai fatto o che non hai fatto che avrebbe potuto cambiare il corso della tua vita? Se non avessi conosciuto Alessandro, il mio attuale compagno, non mi sarei trasferita a Roma, quindi la mia vita sarebbe sicuramente cambiata notevolmente. Ah, e dove vivevi? A Palermo. Ah, e dove hai conosciuto Alessandro? Telefonicamente. Ci siamo conosciuti via cavo. Spiegami un po' di più, non è chiaro, se vuoi. Allora, lavoravamo insieme, facciamo parte di una stessa società. Lui nella sede di Roma, io nella sede di Palermo. E quindi il nostro rapporto è iniziato proprio telefonicamente. Ho capito. Sei contenta di questo cambiamento? Sì. Tanto. Guido, ti volevo chiedere, c'è qualcosa che hai fatto o non hai fatto nel tuo passato che avrebbe potuto cambiare il corso della tua vita? Sì, se non ci fosse stata una donna che era un amore impossibile, probabilmente tanti anni fa, una ventina d'anni fa, sarei rimasto negli Stati Uniti e chissà oggi la vita mia. Io sono curiosa, raccontami un po' di più, chi era questa donna impossibile? Ma era un amore giovanile e quindi era un po' mitizzato come tutti gli amori giovanili e non corrisposto. E perché era impossibile? Perché era una donna che non si poteva avere, insomma, tutto qua. Una donna che non era, non so, era forse anche alla mia portata, cioè l'ho anche avuta come donna, abbiamo avuto anche una storia, però non poteva diventare più di quello che era, soltanto non poteva diventare una storia importante, quello che uno perlomeno reputa che sia una storia importante. E hai mai pensato a come sarebbe stata la tua vita se tu fossi rimasto invece negli Stati Uniti? No, su questo non mi sono mai soffermato, però devo dire che, vabbè, un piccolo rimpianto c'è, insomma, perlomeno di aver fatto questa esperienza, poi non dico che avrei costruito lì il mio futuro, la mia vita, anzi, probabilmente no, però poteva essere l'inizio di un... di un viaggio più grande che mi sarebbe piaciuto fare.